in primo piano. Buongiorno, buongiorno, grazie Alessandro Milan e a Radio 24. Oggi è una di quelle giornate nelle quali è difficile fare rassegna stampa perché le notizie sono troppe. Uno può dire, o qualcuno può dire, per fortuna, dopo che per alcuni giorni abbiamo avuto una sola notizia, che sono state le elezioni europee e il dopo elezioni europee. Oggi all'improvviso le elezioni europee finiscono sullo sfondo, lasciano qualche traccia, in particolar modo, così chiudo con l'argomento, lo troviamo la traccia nelle vicende che riguardano gli effetti sui singoli partiti. Ad esempio c'è grande attenzione alla nuova campagna politica della Lega insieme all'Italia dei Valori, il partito vittorioso, uscito vittorioso da questa elezione europea, per cui la Padania lancia la questione che effettivamente caratterizzerà la campagna d'autunno della Lega, cioè il popolo, titolo a tutta pagina della Padania, il popolo chiede più soldi in busta paga, Bossi, noi siamo sempre in fabbrica e abbiamo un sindacato, non abbandoniamo la gente. Cioè in tempi di partiti leggeri e di post partiti, post politici, di fatto ripropone una sorta di seguito della riedizione del partito di massa, del vecchio partito comunista, e questo messaggio echeggia anche sul giornale diretto da Giordano. Ecco come cambieremo le buste paga, di nuovo dopo la vittoria nelle elezioni la Lega lancia la nuova campagna, stipendi su base regionale più alti, dove la vita costa di più. Abbiamo fatto la prova, guardate quanto guadagnerebbe un operaio del nord. Quindi questa è la differenza sostanziale tra il vecchio partito di massa, che si trattasse del Partito Comunista o della Democrazia Cristiana, del moderno, nuovo, post partito di massa, la Lega fonda ancora tutto il suo messaggio sul rapporto tra messaggio popolare o populista, comunque popolare rivolto ai ceti popolari, e territorio. Il centro-nord, d'altra parte, è l'area dove gli operai di impresa privata, il centro-nord, hanno un peso, per cui anche il pezzo, l'articolo di fondo del giornale evoca lo stesso messaggio: non chiamate le gabbie salariali, sottolinea Nicola Porro, paventando proprio questo aspetto, il legame della rivendicazione salariale e lo specifico territoriale, l'autonomia territoriale della contrattazione. Facendo riferimento invece al vero antesignano del partito di massa, non possiamo fare riferimento al fatto che oggi ricorre l'anniversario, il 25esimo anniversario della morte dell'ultimo leader del partito di massa, non che dopo non ce ne siano stati altri anche nel partito comunista e postcomunista, ma oggi il riferimento che tutti fanno con una certa nostalgia a sinistra e non solo è proprio a Enrico Berlinguer, ancora con noi, titola tutta pagina l'Unità, con grande foto di Enrico Berlinguer 25 anni dopo, e sul fascione rosso un'affermazione molto rilevante di Berlinguer stesso, a suo tempo detta, che però risuona anche oggi come emblematica, sintomatica del dibattito corrente sulla democrazia. La democrazia è una conquista in atto e sarà consolidata, va difesa da ogni stravolgimento e amputazione, da ogni tentativo di svuotamento o soppressione, ovunque essi si manifestino. E questo è un po' il tema che in qualche modo, per qualche verso, noi vediamo echeggiare attraverso gli altri personaggi, gli altri fatti che invece hanno fatto irruzione oggi sulle prime pagine dei quotidiani, imposti appunto dalla realtà quotidiana. La prima è, proprio sul tema della democrazia, la polemica in atto promossa e prodotta dall'arrivo in Italia di una figura allo stesso tempo ingombrante ma importante per gli italiani a livello internazionale, come Gheddafi, il signore padrone e leader dei nostri vicini libici, su cui le posizioni sono molte, sono diverse, e bisogna dire che Gheddafi nulla ha fatto per nascondersi e per nascondere tutto questo. Veramente, dal punto di vista della comunicazione, un genio, anche in questo caso postmoderno, che niente ha da apprendere, ma qualcosa anche da insegnare ai nostri leader delle post-democrazie. E prendiamo tra gli altri alcuni quotidiani anche di diverso orientamento, che però affrontano il tema in modo diretto. Libero, una caricatura di Benny in prima pagina, entra, come si direbbe, si dice a volte con linguaggio calcistico, a gamba tesa. Dalla tenda al palazzo, un beduino al Quirinale. Gheddafi accolto con tutti gli onori da Napolitano e Berlusconi, mentre il dittatore sfoggia sulla divisa la foto dell'eroe anti-Italia e il Senato si rifiuta di riceverlo. Bisogna dire proprio questo, che in qualche modo la provocazione del leader libico ha fatto parlare molto e anche creato imbarazzi. Lo sapeva benissimo qual è questa provocazione. Vediamo dalla prima di Repubblica. Gheddafi show, titola, fra le polemiche, il leader libico, il terrorismo va capito, negato il discorso al Senato. Il leader libico Muammar Gheddafi arriva a Roma accompagnato dal figlio del leone del deserto, eroe nazionale ucciso dall'esercito fascista, sulla divisa appuntata una sua foto. Sono qui, dice poi, perché l'Italia si è scusata per il colonialismo, e sul terrorismo va capito. Scoppia la polemica tra maggioranza e opposizione sull'opportunità di farlo parlare in Senato. Dopo la mediazione di Schifani, l'intervento di oggi è stato spostato alla Sala Zuccari. E di chi è questa foto? Ecco qua. Sempre da Repubblica, all'interno Angelo Del Boca, che è probabilmente tra i più importanti comunque studiosi della storia del colonialismo italiano, ce lo ricorda. Quella foto attaccata al petto ricorda la cattiveria degli italiani. Cosa dice Del Boca e cosa ci risponde? La domanda di Giampaolo Cadalamu, professor Del Boca, che cos'è quest'immagine che Gheddafi ha voluto esibire facendosela cucire addosso? E il momento in cui Omar al-Mukhtar viene portato in carcere, è già in catena, trattenuto dai soldati italiani e circondato da funzionari fascisti. Ma che significato ha questa foto? Rappresenta il capo della resistenza in Cirenaica, incatenato ed esposto al ludibrio. Omar al-Mukhtar, che allora aveva 72 anni, era il vicario di Idris, che non era ancora re ed era fuggito al Cairo. Insomma, era rappresentante dei sovrani umiliato dai fascisti. In pratica, a chi lo ha accolto in Italia in modo violento, contestandolo come nemico della democrazia, Gheddafi ci ha ricordato, come dire, le nostre pagine propriamente non democratiche, in particolar modo quella nostra storia di colonialismo anche violento, che contrasta con la nostra idea, immagine, autoimmagine di italiani brava gente. sempre su Repubblica, ma come riprendono anche molti altri giornali, le polemiche che spaccano, come sempre avviene, soprattutto il centro-sinistra. Gheddafi a Roma, tra le polemiche, cancellato il suo discorso al Senato, ma come si dice in pagina successiva, le opposizioni contro il dittatore, ma sul colonnello si spacca il Partito Democratico. Perché? Perché con consueto realismo D'Alema, già ministro degli esteri, sottolinea giusto farlo parlare in Senato, e con questo la lite principale è con Veltroni. Resto un attimo su Repubblica per aprire l'altro argomento della giornata, ed è la fiducia sulle intercettazioni che è stata votata ieri, che la Camera ha votato ieri su DDL sulle intercettazioni. C'è l'apertura durissima di D'Avanzo che scrive: quello che sui giornali non leggerete più. Se escono fuori registrazioni lascio questo paese, lo disse Berlusconi l'anno scorso ad Ancona, e così annunciò la sua offensiva contro le intercettazioni, più che un'offensiva, la distruzione risolutiva di uno strumento di indagine essenziale per la sicurezza del paese e del cittadino. Permetteremo le intercettazioni, disse nelle Marche, soltanto per i reati di terrorismo e criminalità organizzata, e ci saranno 5 anni di carcere per chi le ordina, per chi le fa, per chi le diffonde, oltre a multe salatissime per gli editori che le pubblicano. Dice e prosegue D'Avanzo: dagli strumenti dell'informazione un utensile che maneggiato con cura, e non sempre lo è stato, si è dimostrato efficace per raccontare le ombre del potere, le possibilità di essere ascoltato nelle sue conversazioni, magari perché il suo interlocutore era sotto inchiesta, come è accaduto nei colloqui con Agostino Saccai in passato, con Marcello Dell'Utri, e per il Cavaliere un'ossessione, un'ansia, una fobia. Su questo argomento evidentemente tornano molti giornali, e noto proprio facendo riferimento a questo problema, la difficoltà futura di fare inchieste anche su temi importanti e rilevanti come il terrorismo e la mafia. E due giornali di sinistra radicale, cioè Liberazione e Manifesto, titolano sostanzialmente allo stesso modo. Liberazione, tutta prima pagina, La mafia ringrazia, che è esattamente il titolo del fondo del magistrato Giuseppe Di Lello, La mafia ringrazia, così apre Di Lello. Il vero problema per le intercettazioni telefoniche era quello della loro pubblicazione, quindi del rispetto della privacy di persone che, seppur non implicate nell'indagine, venivano sbattute in prima pagina, spesso a causa della loro notorietà. Il governo però ha preso al volo l'occasione per regolare i conti con il sistema stesso delle intercettazioni, con i magistrati, con la stampa, uniti in una specie di grumo eversivo che in questi ultimi anni tanto danno ha fatto agli affari berlusconiani, pubblici e privati. Niente, chiudo con questa primo flash sulle informazioni principali del giorno. Ci sentiamo dopo le notizie sul traffico. In primo piano. Eccoci qua ancora. Allora, proseguiamo con le informazioni e passiamo direttamente a un'altra informazione della giornata che danno tutti i principali giornali. In questo caso è d'obbligo il riferimento al titolo del quotidiano che mi ospita, il Sole della radio che mi ospita, quindi il Sole 24 Ore, perché fa riferimento all'accordo che in questo caso diventa però operativo, Fiat Chrysler. Marchionne, ce la faremo, il numero uno ai dipendenti, abbiamo il sostegno di Obama. A Torino, 3 dei nuovi componenti del board. Nasce la Fiat Chrysler, accordo tra Lingotto e Detroit, ok in borsa. Non ho alcun dubbio, così apre questo giornale, il giornale, cioè questo articolo del Sole 24 Ore, non ho alcun dubbio, ce la faremo. E come vedete, direi che raramente ci si è trovati di fronte a un messaggio altrettanto coerente con un modello di riferimento, cioè così obamiano. In fondo direi Marchionne interpreta per l'economia e nell'economia italiana e non solo un po' quella rottura anche comunicativa che Obama ha avuto nella politica internazionale americana, anche dal punto di vista dello stile, anche se appunto notoriamente il quadro e il problema è largamente diverso, il contesto è diverso, però come dire, questa ricerca di rottura delle regole e di apertura, e d'altra parte questo linguaggio obamiano sottolinea anche la significativa e non irrilevante coerenza e connessione tra questi due leader molto diversi e su misure e piani molto diversi. Sempre per muoverci sulle notizie e sulle informazioni della giornata, mi sposterei un attimo di nuovo sul tema della politica e sugli effetti del voto, segnalandovi alcuni articoli. Uno, noi lo troviamo in generale, abbiamo una serie di pezzi che tornano su quello che avverrà dopo il voto, cosa sta a sottolineare il voto. Il voto sta a sottolineare comunque l'apertura di nuovi fronti polemici, di nuovi dibattiti all'interno dei partiti maggiori. Tutti hanno gli occhi soprattutto sul Partito Democratico, che è già in fase congressuale. Per cui sulla prima del foglio noi troviamo un titolo, proprio l'apertura, che mette a confronto le due posizioni rispetto al Partito Democratico. Tutti nel PD, fa riferimento appunto, questo è il titolo del foglio, e fa riferimento al dibattito interno. A sinistra c'è un titolo e un pezzo che si occupano direttamente delle polemiche, cioè Morando, Fioroni, Tonini e Parisi e Ceccanti favorevoli all'idea del partito unico, dal partito di rifondazione comunista all'Italia dei valori, mentre dall'altra perché ex post neocomunisti Verdi, Di Pietro e Pannella dovrebbero entrare nel Partito Democratico. Cioè questo è il fronte, il nuovo fronte, che in realtà non è così nuovo, perché questa è la posizione che aveva Prodi, l'idea dell'Ulivo, cioè del Partito Democratico, non il Partito Democratico, il partito di centrosinistra con dentro tutti quanti, da destra a sinistra, a cui si è opposta invece la posizione e l'idea del Partito Democratico, che invece è il partito omogeneo, che attrae gli altri. La sconfitta elettorale reiterata del Partito Democratico riapre in qualche modo il prodismo. Vi segnalo altre due questioni che emergono oggi sui giornali. Uno, lo trovate sull'Avvenire, molto interessante, l'apertura di Antonio Maria Mira, camorristi, infami, a Portici non avete vinto. A cosa fa riferimento? Fa riferimento a ciò che echeggia anche in seguito a quanto è avvenuto in Sicilia. In Sicilia la rivolta degli imprenditori onesti, guidati da una finalmente convinta e convincente Confindustria, sta dando buoni frutti. Questa primavera siciliana è una realtà, la Campania è ancora indietro, ma segnali promettenti non mancano. Anche a Portici, dove nel silenzio di più, sottolineato ieri dagli investigatori, qualche imprenditore aveva cominciato a ribellarsi nel nome della libertà, perché è proprio questa che la camorra toglie, libertà di lavorare e di dare lavoro. Quindi anche nuovi segnali in questo senso, in questo modo. Ultime notizie che vi segnalo prima di chiudere questa giornata di rassegna stampa. Dalla prima sul Corriere della Sera, una nuova lettera di Veronica Berlusconi, infangate la mia dignità e la mia storia coniugale. È una lettera molto molto secca, molto molto puntuta, dove si sottolinea che la verità del rapporto tra me e mio marito non è stata neppure sfiorata, così come la ragione per cui ho dovuto ricorrere alla stampa per comunicare con lui. Chissà che ci si arrivi. Ancora ultima, e fa un po' in qualche modo il paio, il controcanto e il riflesso alla nota che abbiamo letto sull'Avvenire, sul Sole 24 Ore Marco Alfieri intervista Roberto Saviano parlandoci con lui del suo nuovo libro che richiama ed evoca non a caso la sto arrivandoci. Eccolo qui, La bellezza e l'inferno, le storie disperate di un sud meno europeo. E se ho un ultimo secondo, so che non ce l'ho, cito soltanto dalla prima del Riformista una notizia, anche questa post-elettorale, lasciamo Mediaset e passiamo a Sky. Chi dice questo? Dicono sostanzialmente i tifosi milanisti che le hanno provate tutte, dall'idea di creare un gruppo su Facebook a fare una colletta per ricomprare Kakà. Anche questa è politica o post-politica. Buona giornata e a domani.